Sì, difatti a me questa decisione ricorda un po' quella frase di Massimo di Nanni Moretti quando diceva facciamoci del male, perché la decisione della Banca Centrale Europea presa un mese fa, un paio di mesi fa, era di imporre alle banche una ricapitalizzazione complessiva in Europa di 106 miliardi, proprio perché le banche dovevano portare al valore di mercato tutti i titoli di Stato che avevano in bilancio e a quel punto ricapitalizzarsi in base a tutte le perdite che stavano subendo. Quella decisione era stata molto osteggiata da tutti perché aveva un effetto boomerang pazzesco, perché essendo in questo momento la ricapitalizzazione, quindi l'aumento di capitale difficile, le banche hanno un'altra scelta per portare i coefficienti patrimoniali, diciamo la forza finanziaria. Vendere titoli di Stato. Vendere titoli di Stato oppure erogare meno credito a famiglie e imprese, quindi diciamo ridurre ridurre i propri attivi. Quella decisione era stata tanto criticata proprio per questo motivo, che aveva un effetto penalizzante altamente recessivo. L'EBA fece un passo indietro e disse ok, ci ripensiamo, guardiamo un attimo la situazione meglio, esce oggi con una richiesta di capitale addirittura aggiuntiva superiore da 106 miliardi a 115. Quindi sinceramente io fatico un po' a capire la logica, perché è vero che una banca, se ha delle perdite, deve aumentare il proprio capitale. Questo è un dato di fatto ed è giusto. Però bisogna anche stare attenti al tempismo, al momento in cui viene fatta una cosa, e soprattutto bisogna stare attenti a perché le banche stanno perdendo soldi. Le banche stanno perdendo soldi per il calo dei titoli di Stato, cioè stanno avendo un effetto negativo sul proprio patrimonio, non solo sul conto economico, per il calo dei titoli di Stato. Il problema del calo dei titoli di Stato è che può essere un pozzo senza fondo, perché se non si risolve il problema degli Stati per primo, e oggi c'è appunto questo vertice europeo che dovrebbe, speriamo, fare qualcosa a riguardo, il calo dei titoli di Stato sarà continuo e quindi la necessità di nuovo capitale sarà ulteriore per le banche. Io una volta in un articolo l'avevo definito l'effetto scolapasta, cioè riempire le banche di capitale come poteva essere come riempire uno scolapasta di acqua: se non si toppano i buchi si può mettere tutta l'acqua che si vuole, certo, ma continua a uscire. Ecco, mi sembra che l'EBA continui a insistere su un punto che, ripeto, è corretto in via teorica, in via di bilancio, perché ovviamente se uno ha delle perdite deve rimpinguare il capitale, ma farlo adesso senza aver risolto la crisi degli stati può essere da un lato sterile e dall'altro controproducente.